Ehi, ciao Daniel. Ciao. Ebbè, pompetta. Ah, è bello. Sono tutto gonfio, amico. Ebbè, Lu. Sì, mi hanno chiamato, Luca. Che avanti? Sono Babbo Natale. Mi senti? Ciao, frate, ascolta, ne hai di quella cosa che scoppia? Cazzo, mi che vedevo bene occhi, minchia, stavo appena presa. Asco, ma ascolta, da. E io, cazzo. Allora, portami un paio di chili, da. E per lui, e allora? Ma si, lo portate. Eia, ma si intende? E perché non arrivo lo stesso? Sì, state con l'Ovesi, e poi c'è Pomponio anche. Caffa, so con l'antenna piccola col portatile. Ma siete a Pomponio. Certo che lo sento, sto scherzando. Segnale 7. Un po' frasico, però già arriva. Ah, voglia, già arrivi, non ti preoccupare. Ma in giro sì. Sono a casa, sono con l'antenna piccola. Ma che cazzo? Chissà perché? Cazzo, molto pompo questo. No, aspetta. Sono un attimo, se ho fatto il nodo qua. Ti volevo dire, pompo, il... come si chiama? Il Mobicom. Praticamente la potenza bassa esce bene. Se lo metto in HI, cioè la potenza alta, esce saturo un po'. Però ho controllato, gli ho cambiato il finale, gli avevo messo il 19,69. Ah, ecco, e vabbè. Lo sai che c'è una resistenza, no, per fare la potenza massima, la potenza minima, quindi evidentemente gli hanno cambiato anche quella. Gli hanno dato più ingresso, hai capito? E quello è il problema. Cosa si può fare? Nulla, bisogna guardare lo schema originale e quanto vale la resistenza all'ingresso tra un filare e l'altro. Dove c'è il pulsante potenza massima, potenza minima, c'è agganciato una resistenza senz'altro. E quindi hai capito? E quello, per quello che ci saturo, quando diventa il pilotaggio tra prefinale e finale, ti fa quel difetto, tutto lì. Gaia che su, ho capito. E allora, dovevo prendere, un nuovo nuovo, c'aveva qualche graffettino. Dovevo dare, solo se lo sistemano loro. Quanto lo sto prendendo? Microfono amplificato, a quello con la batteria da 1,5. E poi c'ha 200 canali. L'ha compreso di staffa. Insomma, è abbastanza messo, cioè messo bene, là. Male come è messo. E guarda che funzioni bene, poi a te cosa te ne frega se c'è appena saturo. È stato modificato e basta, non fanno altro che regolargli, capito? L'ingresso da un finale all'altro e va bene. Tutto lì. Gappa, però già si può sentire lo stesso, anche se piccola. Che cosa è portatile? Ehi, ecco, con l'antenna piccola sono. 6,7, cosa vuoi di più? Un Lucano. Anch'io con quel baracchino portatile che avevo io uscivo benissimo da loro. Ho agganciato l'antenna del portatile Major, del portatile della Inter che mi aveva dato Marco. Capito? E usciva benissimo. Poi l'avevo dato quel portatile e... non so che fine abbia fatto, la verità. Però usciva bene, la verità usciva bene, montava le batterie, 10 batterie, montava da 1,5 di quelle da 1200 mAh. Sai che ho avuto pure il portatile, lo sai, così lì, sì, l'avevo avuto. Ho iniziato con quello, allora fermo modulare, cosa facevo? Staccavo la moto, la batteria dalla moto, quindi non mi trovavo ben poco. Era 1 ampere, 5 ampere di barco, 3 ampere, o 3 ampere. Quindi mi trovavo poco. Poi quando mi si scaricava del tutto, magari mi ripiazzavo nella moto, me la ripiazzavo in giro, no? E poi me la ritaccavo di nuovo e me la usavo per usare il baracchino. te lo dico, diciamo il coso, la antenna in gomma agganciata dietro la bazooka, e poi dopo per il culo a coso, ma quello è morto. In pratica tuo cognato, quello fratello di Carletto, la via d'Italia, poco si incazzava, io parlavo con Martino, quello fine della Intec, e lui mi sentiva tranquillamente lì. Tanta, lo so che sei tu, Alessio, lo so che quando vengo lì in negozio ti metto le mani addosso, mi diceva, fa la cosa, ha detto, vieni quando vuoi entrare, mi ha detto, ho preso anche tuo fratello, gli ho detto, lui ci penso io, che hanno roba di negozio, l'ho tirata a fianchi. Vabbè, dai, gli anni sono passati, continuano a passare gli anni, e cosa vuoi fare? E che vuoi fare? E si spengo questo telefono. Ok. Grazie, avevo iniziato con, vabbè, iniziato proprio con la stazione fissa, con la trana sul tetto, con la foglietta di Texas, con i pareti di Giavasso Baracchino. Vabbè, tu hai vissuto nella mia, il primo baracchino l'ho avuto 23 canali io. Diciamo che 40 canali era Falcone, Walter, eccetera eccetera. Poi da lì sono passati loro, diciamo, i soldi, io i soldi non avevo. Il primo 40 canali che mi sono comprato era il presidente, usciva benissimo, eravamo in tre in quel palazzo che parlavamo a Baracchino. Io, Fancello, la buonanima, e la buonanima di cosa? Di quello che avevamo qui, eravamo tre CB, tutti e tre nello stesso palazzo. Uno al primo, uno al piano terra e io all'ultimo. Quindi figurati tu. Chiaro, dovevamo testare tutti nello stesso canale. Allora, tutti e tre nello stesso canale parlavamo. Io l'ho detto, io ho entrato con Pace 123 e quello c'aveva la linea decametrica, perché Pancello ci aveva pensato la Grand Prix, insieme a lui sono andato a piazzarla, lui si è pensato la sua e io mi sono pensato la mia, dalla sua alla mia c'era distanza neanche di un metro, e invece Pierpaolo, quello al primo piano, c'aveva la boomerang che ha messo la terrazzino, quindi eravamo due più sono andato al primo piano, quindi figurati tu, 3 CB a parte tutti Giuseppe Vela 3 e tutti gli altri che c'avevo vicino, era un togliaio, è diventato da loro, ero io, capito? Ecco. Vabbè, anche noi avevamo tutti vicini, Silvia, Roberto Bandito, Unia Gazzino. Quando si spostava con Silvia nei canali, cazzo, io impazzivo, uscivo di testa perché sentivo come di splatter. Fino ho fatto Silvia Splendida e Silvia Paria, si sono sposate tutti e due. Ah, non lo so, Silvia Splendida è fidanzata. E l'altra Silvia, non lo so che fine ha fatto. Ma c'era il male in pratica. Era... Silvia Paria, ma non aveva l'altra. Era. Non l'ho più vista in giro, la verità. Ma quel fratello l'ho più visto. Poi vabbè, CB, a parte Roberto Bandito lì, era pieno di CB di Almonte, cazzo. Almonte, Tunizenda, a parte Marco Collo c'era due o tre ragazze, parlavo di lì, stavamo fino a mezzanotte alle 3 del mattino e Marco intanto entravano per a prendermi per il culo. Non a me, no, a lei, a quella che parlavo io, che parlava alla mia Pasubio. Ce n'era Puglia. L'ultimo era di Acera, insomma, vabbè, da quando ci sono queste, da quando ci sono usciti questi computer, telefoni di ultima generazione, ormai c'è l'internet. No, l'internet sono malato parecchia gente, Facebook, perché un sacco di ragazze gli hanno offese, gli hanno detto che erano troie, cose del genere, capito? Quindi hanno mollato tutto. Roberta, quella che abitava vicino a casa mia, vicino a Via di Zeddu, che parlava a Baracchino, era sempre su Facebook, adesso ha preso e mollato tutto. contatto, no? Lui vuole più sapere di internet, perché è diventata una cosa pesante adesso, capito? Quindi un sacco di gente sta mollando quella roba lì, perché sta diventando un togliaio anche lì, quindi a un certo punto è così. Purtroppo Facebook non puoi, cioè ci sono certi che lo usano per farsi i soldi, hai capito? E certi invece che lo usano solamente per andare a fare male agli altri, a offendere, eccetera, eccetera. E così è. A parte, vabbè, il giro delle... Quando c'era il lockdown c'era il giro delle cose, c'erano le ragazze pompom che andavano a chiedere l'amicizia per chiedere i soldi, ti facevi vedere il pisello, dopo 5 minuti il cazzo ti arrivava il messaggio, dammi 3.000 euro o mando l'altra foto del pisello tuo a tutti gli amici tuoi. Massimo, sto andando in bagno. Con comodo, sì, con un comodo. con un comodo, sì. Allora, fatta a me, Luca, lo sai, la stessa proposta. Mi fa dice, lui mi ha chiesto l'amicizia a questa tipa grande, no? Mi fa poi, il sesso ti piace? Scusami, grazie di domande mi fai, quello piace a tutti. Dice, ascolta, passa, mi ha fatto, vai su WhatsApp, e da me io stavo a fare la luce. E io su WhatsApp gli ho detto, a un certo punto mi fa, dice, vai in bagno. E io ho detto, cosa cazzo ci farò a fare in bagno? Ho detto, se vivo là solo. Ho detto, scusa, che cosa ha cambiato? Io sono in salone. Perché cosa ti serve? No, voglio vedere il tuo coso, io ti faccio vedere la mia cosa. E io ho detto, fa la cosa, attacca di tira in culo quella roba. Io gli ho detto, se vuoi vedere il mio coso, ho detto, vado da macellaio, ho quello detto delle... nell'asino e ti mando quella, così la fai vedere tra gli amici tuoi e anche gli amici miei, così si mettono al diretto. Ha preso un metto risposta. Per ricattarti, dai. Per ricattare, immagino rimasta male però. Perché ho detto, se poi ti mando la foto di quella dell'asino, ho detto che sono andato in macelleria l'altro giorno e l'ho fotografata, lo sanno tutti gli amici miei, quindi. Se vuoi la mando detto agli amici tuoi, come fai tu, detto, le cose le faccio anch'io, no? Quindi non so se ti conviene, gli ho detto, almeno ti prendo per il culo. Ha preso e non ha più risposto, è sparita la circolazione. Ma sono, secondo me sono così, quelli uomini sono. Delle donne non ne fanno queste cose. E mi hanno mandato un po' di video a me, quelli di chi si faceva coso, e io, Madonna però me. Io pigliavo e mandavo a Giuseppe, le mandavo a Giuseppe Leoncino, e tu Giuseppe mi ha mandato questi video, guardate, gli ho detto, a me non mi ha niente di questi video qua. A chi a me non ha detto una, se andavo in bagno, dove non sta a casa, vai in bagno. Faccio la videochiamata, ha detto guarda, non ci posso andare in bagno, perché non mi ricordo cosa avevo scritto, stavo mangiando i piedi d'agnello, No, a me mi avevo chiamato un giorno, e con me c'era cosa, c'era Antonio, e tanto fa la cosa, questa qui ha detto vuole vedere l'attrezzo tuo, ti ha detto l'attrezzo vuole vedere, fagli vedere il tuo, detto, vai in bagno e lo fai vedere, quello a me non me l'ha fatto nulla. Vai, mi ha detto, a capelli mi ha detto, che se ne vuole a fare il culo, mi ha detto. Sono fuibili. Come cugliano, già io non ci casco. Se no io, quella era la periodo del lockdown, proprio per le foto che non riuscivo di casa, mi approfittavo. E qua mi hanno mandato il video, cazzo, di loro. Poi quel telefono è andato a Giuseppe, gli ho detto, Giuseppe, mi sono rimasti quei video là, gli ho detto di queste ragazze che mi mandavano il coso, le lasciate a lui. E tra l'altro non me l'ha fottuta a me. E fui biso. Poi non mi ha più scritto nessuno, ha detto, non mi ha più chiamato, chiesto l'amicizia più nessuno, quindi sono tranquillo. Adesso quando mi chiedono l'amicizia, se quello chiede rispondo, se non se quello chiede neanche rispondo, non so nient'altro. Sono fatto così, ce la faccio perdere tempo con queste cazzo. Hasta è bello invece quando era capitato, quello me lo ricordo sempre, di questa di non era Colombia, aspetta, di che cazzo mi sono, non me lo ricordo adesso. Abbiamo fatto questa amicizia, abbiamo parlato, poi una sera stavo parlando, mi ha chiesto, io ho fatto la videochiamata, e gli ho fatto, aspetta, faccio vedere tutta casa mia, gli ho fatto vedere il salone, la cucina, il bagno, poi ho camminato dove c'era Simone, non ci sono entrato, A un certo punto esce Simone, mi fa, ma qui questa troia che stai parlando, la mezzanotte e mezza, ha preso quella, ha preso la chiamata, ha chiuso. Andiamo, andiamo. Che è? E beh, tu. E beh, cazzo, ma sono una buona, ma mi tuado, mamma mia. Cazzo, che tutti chi si... Raga. Gnottina, cazzo, sono sempre guetto. Lui le cerca. Ma chi? E quella persona che ha detto poco fa. Giuseppe. Ehi, è vero quello, già, è vero. Ogni tanto ne... Cioè, intanto me ne manda una, me ne mandava. E Giuseppe, lui mi ha detto di queste qua. A scaricarmela a me. Per carità, io la prendevo e le hanno date tutte, le hanno date. Scusa che l'ha fatto vita, l'ha fatto spogliare e poi pure a Didina, attivamente. Bravo, è vero quello. Ha telefonato a me immediatamente, ha detto Giuseppe, chiudi, che tu fai la cosa, tu cancella tutti gli amici che c'hai, compreso me, gli ho detto, cambia la foto e cambia nome. Nulla, cazzo, ha cambiato il nome, però la foto l'ha lasciato la stessa. È una scena, solo quell'episodio, Ce ne sono episodi, Antone. Già lo so. Dillo a me. Ui. E vabbè, lui ha fatto così, cosa ci vuoi fare? Io... A me mi è capitato quella volta, mi sono divertito, la verità. Mi sono messo a dire con Simona, quando è uscita fuori dalla camera a letto. Ma chi è questa troia, mi ha detto. Ha preso, è quella che ha chiuso la chiamata in diretta, perché gli avevo detto che vivevo da solo in casa, hai capito? E lei stava ascoltando, è uscita fuori, e le risate che mi sono fatto, cazzo. Poi quando sono andato a raccontarlo, ma tu sei matto, allora, io vado, ma mi stavo divertendo, ho fatto per tutte le camere di casa mia, gli ho detto, tranne che la camera da letto, gli ho detto, perché c'era Simona addormentata. Quando è uscita fuori ha visto Simona che se ne parla la base a quella. La scena, sì. Non so, dice, mi hai fatto la propria Simona, se non è vero. Quindi figurati tu, cazzo. Sono quelle isolette disperse nell'Oceano Atlantico, aspetta come cazzo si chiama. Adesso non mi viene in mente, cazzo, c'ho sulla lingua, ma non mi viene in mente il nome, cazzo. Aveva ragione che la bagassona. Sì, ma quella chiedeva i soldi a tutti, il discorso è quello, soldi a me, soldi a tutti quelli che si chiedeva soldi, capito? Lui si campava solamente dei soldi così, chiesti su internet. Perché poi magari c'era il pollo che ci stava e come si dice? E gli mandava, quello sì, è vero. Avanti Luca. Come sta facendo un piccolino? Una via gana di tutta sta caramanna. Che è? Io mi sto guardando le iene. Ma che non va bene come cosa? Sta andando peggiorando. Come andando peggiorando? Sei in basso. E quanto sta arrivando? Prima di poco più di 9 sta scendendo. Come scendendo? È sempre qua a me. Ma se la macchina un po' scarica. No, guarda a vedere, com'è adesso? Vai. Come se prova? Uguale. Aspetta che attacco quello là, va. Quello omologato attacco. Che fregata. Ma mai che l'ho scritto Luca di... C'è un problema. Mi ha scritto una, ha detto che proprio mi ha, dice guarda, c'ho $1,000,000 che abbiamo rubato in cosa mi ha detto, in Afghanistan, ai talebani. Ha detto guarda che, detto, io non ci credo. Dice aspetta, ti faccio la fotografia della valigia, mi ha fatto. Mi ha fatto la fotografia, mi ha fatto vedere questa valigia con tutta piena di dollari, la verità. Dice, vuole che li tenessi tu perché mi fido di te. Io ho scritto, ma tu sei matta, se mi dovessero trovare a me la valigia, così gli ho detto, mi metto in galera, non esco più, gli ho detto. E per fare la cosa, dalla qualcun altro, gli ho detto, non dargli a me, gli ho detto. Ma io mi fido di te, torna, gli ho detto, non mi cercare nemmeno, ho detto a me, con questi soldi, gli ho detto, non me ne frega niente, a me di $1,000,000, gli ho detto. Lo batti che hai talebani, ce la faccio, ti ho detto. Ogni tanto ne inventano qualcuno, ne inventa. Mi sentite? Sì, te ti sento. Ah, va. Un po' meglio adesso. Sono bianconato, vado in bagno. Io ti sento bene. Ah, quanto mi ascolti? Un po' di più? 7,5. 4 watt sto usando. Io ti sento a voglia, ci mancherebbe. Ho preso, ma ho mandato quella foto a Giuseppe, ho detto Giuseppe vuoi un po' di soldi, ho detto mio, $1,000,000, ma sei scemo, allora ho detto va, chiama questa qui, fallaci tu e te li fai mandare, io ne vedo oggi in mano. Ma la faccio, attacco la ringo, attacco. Attacca la lingua, se vuoi attaccare la lingua con baracchino normale, come vuoi tu, io ti sento anche così, la verità. Ma se mi senti non ho problema, solo attacco la ringo. No, ti sento, non ti preoccupare, ti sento bene. Ma domani ce la salgo di più quella là, Se vuoi guarda di più, quanto ce l'hai alta adesso? È bascia, mi sarà un metro in baro, mi sarà. Ah, sollevala. Io ti parlo telescopico, non c'è un parlo telescopico di ricca. Sollevala almeno 4-5 metri, tanto leggera, amico. Non li mette manco i tanti, cosa te ne frega, è un'antenna che pesa mezzo chilo. Sollevala 6 metri e poi vedrai la differenza che c'è. Per me ci posso contare. Adesso domani la metto in un palo che ho nella casetta direttamente. Guarda che pompa. Infatti te lo sto dicendo, quella zona è bella a me. Se avessi avuto la villetta che c'hai lì vicino dove sei tu, che è la battua, lì vivresti di lusso, vivresti, la verità. Io, quello già aveva soldi, i padroni di quelle tre ville, ha affittato cazzo le tre villette a cosa è Croce Blu, adesso non mi ricordo, quindi figurati di là arriva più tutto il terreno che c'è lì buttato. No, non è solo affittato a loro, una parte da Croce Blu e poi cosa? Un'altra parte l'ha data un po' di mamma terra, un'altra parte ce l'hanno loro, c'era lui l'assicurazione e la figlia di loro, capito? E poi ce l'abbiamo noi. La voglia che sta bene, mi viene in vendita in Chivi, la voglia. Va bene, sì. Solo quelle tre video non penso che non minimo di... ogni villa di 200.000 euro vale una cosa del genere, tu dici, magari sto dicendo cazzate, però sono belle quelle villette. Io penso che lì, tra terreno e tutto, ci sarà un minimo di 500.000 euro di roba. Un bel roba, un bel di là, mi so. Guarda, li togli i soldi. Guarda, lì si aveva aperto, lo dico molto, ma si aveva aperto un circolo. Un circolo, tanto per dire un circolo, vabbè, un bar, visto pub dove fate il sud, lo dico io, direi. Perché c'è il parcheggio, c'è tutto, sarebbe uscito un bombo, sarebbe uscito. Già lo so, ma hai visto quanta moda quel centro benessere, cazzo, 5 villette, fatto al centro benessere, quello si ritira il pallone di quelle, di tutte quelle villette, minimo si ritira dai 3 ai, non dico molto, almeno 50.000 euro al mese di affitto si ritira. Dopo, con tutto quel calore che c'ha, figurati, fino alla spiaggia. Fazzi beh, fazzi. Hai detto che sta guarendo va? Ehi. Tanto me. Ehi. Come è adesso? Ho migliorato il segnale. Ehi. Ha voglia. Ma quanto è passato adesso? Da 7.5? 9.5. Già mi basta, sono 4 watt, sono pochissima potenza. Ma voglia che ci esci bene, ci mancherebbe. Cosa me ne voto di pompare? Nulla te ne fai pompare, vai da pompi, poco da pompare ci abbiamo. Siamo 4 gatti, giusti e giusti siamo, cosa vuoi pompare? Forse è stato magari la gente d'Anghelo, Papa Torres, tanto quanto, ma siamo a 500 metri, massimo un chilometro, cosa vuoi di più? Scappa, adesso sono proprio con pochissimi fatti, poca potenza. Io c'ho quei piedi di merda, di cosa, di fusato, cazzo. Ma se ne vanno a fanculo quando scaldano, cazzo. Ma se devo fare i piedi nuovi domani mattina del lineare. Sono una cagata quei piedi, cazzo. A fanculo a me li ho presi, cazzo. A 2,51. Tanto! Ma cosa hai comparato? Piede di quelli plastificati bianchi sono, già lo sai. Non so se è Teflon, cosa diamo, che materiale sia. Però sono dei bidet questi piedi. Erano meglio quelli imbaccheriti una volta. Li piazzavi, non li smontavi più. Anzi, ti dimenticavi anche di toccarli da solo l'altro. Perché sono particolari, quelli lì vogliono saputi saldare, se no vanno in affanculo, capito? Ti ho saldati, li salti bene, ti sto dicendo, quando, il fatto quando gli aggancia all'uscita del lineare, hai capito, quei capetti lì scaldano, hai capito? Il capetto quindi scalda anche il telefono e sembra che vada in corto. È un casino, fa ancora a me. Ma se domani li rifaccio nuovi, hanno le balle piene di questo cavolo di cose. Ecco, no, a me grazie a Dio non mi danno problemi, bisogna sapere già, se li scaldi troppo vanno a puttane quelle. No, sono saldatore da 20 watt, c'ho anche con 900, ma ce la faccio, se li metto con 900 poi rimane in mano. Bisogna stare attenti saldandole, capito? Sono particolari, te lo dico perché ho questa esperienza. Ci vuole anche lo stagno adatto, ci vuole uno stagno fine, capito, quello che scalda subito e salda. Se li metti lato stagno sei fottuto. Infatti già non ne uso io. Poi la punta, io sai cosa li faccio, la punta del saldatore. La metto nella mola, la smuscio un pochettino, mi tolgo quella crosta, alza come salda. Sì, vabbè, se questo basta pigliare la crosta, che fa la stessa identica cosa, c'è bisogno della mola. tipo catabrasiva grossa, che era una passatina, e già fa lo stesso. Io sto molto attento saldandoli, perché poi se tu li sciogli e si girano dentro, boh, è messo. Quindi il G213 è uno che gira da solo, gira dentro, gira, figurati. Infatti quelli li uso per il coso, per fare la tela fissa della Bianco. Vediamo, adesso si è imballato il metodo del lineare piccolino, non sale più, gli ha creato il lineare e li metto, sbatte, metto di un del coso, della KP201 li metto, e c'è un nuovo del dosbato, ho detto quel sbatte metto di grande e va a far culo. Studiamo la distanza della tarda, c'è apparecchio. Aspetta. Sono buoni con gli apparecchi, io ti credi. Preso la Fusaro, l'alfaiate Deus questo. Io invece non ho preso la Fusaro, ma ho pigliato, l'ho tirato là fuori, lo vendevo Fusaro lo stesso, con la forma, l'ex, mi sa cagata. C'è una tecca, con la chiave è bello esterno, il microfono non serve a portare niente, adesso gli faccio la modifica, domani e li metto, c'è quella amplificatore telefonico per telefono, capito? C'è l'amplificatore dentro, posso anche ascoltare con la colonnina esterna direttamente nelle cuffie, posso, premendo il pulsantino, posso commutare da uno all'altro e mi diventa il microfono amplificato, e così lo voglio provare a vedere se funziona bene, lo tengo così. E questo c'è l'apparecchio, ma questo funziona alla grande, non sarà chissà cosa, però meno che c'è il filo lungo, ma l'uso poco, salfagliette, è molto silenzioso, già esce bene, è perfetto. È molto, molto, molto selettivo, molto silenzioso come apparecchio. Mi piace. Qualche volta mi piace anche usarlo, poca potenza, ciammi. Vabbè, 4 volte esavo di più. Già basta, per parlare. Ho avuto anche l'Intec io. È durato un poco. L'Intec l'ho avuto anche io, 40 calari. Quello che mi piacerebbe di avere se lo trovo il Major HB40, mi pare che è portatile, 40 canali, e c'è l'attacco del microfono esterno addirittura, mi è poco grosso, tutto in ferro, Ma è sul lato c'è apparecchio, con quel portatile che avevo io parlavo della campagna per il produttore, tranquillamente arrivavo fino a come dire, prima di dove c'è il magistero parlavo tranquillamente, arrivavo a segnare 8:30, 9 per il produttore, figurati, mettevo al centro di campagna e parlavo tranquillamente con Sassari. Ma Luca ha chiuso di tutto, Non lo so, magari stava guardando qualche film, cosa ne so. Ero mesi che non lo usavo questo apparecchio, mesi. Ho detto, ma perché non lo devo usare? Hai fatto bene a usarlo, hai fatto bene. Cioè, è un peccato. Sempre bello. Questo qua c'è il coso dorato, c'è come si dice, lo schermettino dorato. Va bene, questo è un bel apparecchio, anche come estetica, già ne vale la pena. Sì, è bellino, sì. Luca deve essere che sta cenando, mi sento che sta mangiando quello, salsiccia, cosa del genere, io poco fa ho fatto una bella cena di salsiccia, poi ho mangiato, vabbè, che si mette per la pizza, di più ci ho messo sopra, formaggio, ho mangiato di tutto, un bel piatto. Fatto, ma te l'hai fatta tu? Ho fatto, io lo so fatto. L'ho voglia di altro. Ho preso un po' di due patate, un po' di funghi, salsiccia, poi altro tipo di funghi, formaggio, di quello che vende lo spin, tutto quanto aumentato oggi lo spin. Alla rimane che delle offerte, cazzo. Sono andato a controllare, ragazzi, oggi ho guardato, cazzo, la birra con la limone che costava 55, 69 adesso. Mi pare che a questo punto come le compara la originale. Oh, vedo che quella verde costa 55 centesimi, quella verde con la schifosa. Hanno aumentato l'altra che è capito perché c'è il limone dentro, non lo so perché. Poi ho visto l'altra roba aumentata, ma hanno aumentato tutto adesso. Sotto casa l'inchiusa, cioè non l'inchiusa, l'Heineken da 3,50. Al panificio da San Giorgio da 4 casse, 8 euro, da 8 euro sono passate a 15. È aumentato tutto. Adesso bisogna fare come si faceva prima, andare a comprare solo quello che ti serve e basta, senza stare a riempire il carrello. Se no ti ammazza, cazzo, non ti rimane manco una lira. Manco un euro. E perché non lo sapevi, ha aumentato il materiale da bricco, ma cazzo no, sono aumentato con una cosa paurosa i prezzi. Adesso ho avuto la questione dell'energia, ha aumentato la benzina 2 euro, cazzo, figurati. Il gas è aumentato lo stesso. Quindi aumenta quello, aumenta anche il resto. Poi hanno aumentato le materie prime, adesso con la questione che noi in Italia ce l'avevamo, solo che purtroppo è un casino. Siccome costava di meno quello di fuori, hai capito? Adesso si trovano tutti in mezzo alla merda. Prima ne avevamo anche troppo di roba e la esportavamo come il latte. Adesso invece, hai capito? Adesso dobbiamo rifare nuovo come una volta, ripiantare i terreni nuovo a grano, a cosa vedrai che la roba ce l'abbiamo. Invece gli orti sono completamente spariti a Sassari. Tu vedrai la gente che comincia a prendere il terreno per piantare frutta, verdura e farsi la raccolta nuova a casa, te lo dico io. Si compreranno qualche pecora, qualche mucca, qualche maiale, qualcosa del genere, e così non vanno al supermercato a spendere soldi, te lo dico io. Di mangime, portano di mangime, tirando là quello che c'è, erba, eccetera, eccetera, e le cose sono fatte come fanno fuori, capito? Ma sta diventando una porcheria, qua sta diventando una porcheria, no, non si può. Perché noi il gas ce l'abbiamo in Italia, hai capito? Il problema è che non lo vogliono, siccome non possiamo fare trivelazioni perché quelli non vogliono, hai capito? Adesso siamo in mezzo alla merda. Adesso tu vedrai che le cose cambieranno, perché te lo dico io, faranno le tribolazioni e noi vivremo tranquillamente con la roba nostra, creerà la benzina, creerà il prezzo del gas, e la Russia se la prende in culo, l'Algeria altrettanto, e la compriamo il gas, che abbiamo speso un sacco di miliardi con dei fondi europei, se ce li stacchiamo in culo. Un bel casino, altro che non c'è niente in macca, io supposo che sono su un'arte, arrivato a 2021 ci sono ancora problemi, ma per carità lasciamo perdere. roba ce l'abbiamo in Italia. Adesso vogliamo aprire un nuovo centrale nucleare, quindi sono esauriti. Per fare la centrale nucleare è meglio fare le trivelazioni, ci abbiamo di tutto, ci abbiamo in Italia, ci abbiamo il petrolio, ci abbiamo il gas, tutto l'Adriatico è pieno di cose, di gas. Se vogliamo capiamo di rendita, capito? È che i partiti non vogliono e quindi hai capito. Adesso si sono accorti che tutti, in pratica tutti i fondi che noi stiamo ritirando dall'Europa, ma neanche la metà ce l'hanno a noi, perché servono per pagare il gas e il resto, perché l'hanno detto oggi. Quindi ce lo dobbiamo dimenticare che quei soldi lì andranno a quelli che in pratica hanno i negozi che sono messi male. Servono quei soldi lì, hai capito? Per attrappare altre cose. Quindi spariscono quei fondi europei. Per carità, beh, detto ciò io mi sono goduto meglio, Antonio. Buonanotte, dai, no, non ce la faccio più. Ciao, ciao, ciao a tutti. Io vi saluto tutti, tutti, tutti. Ciao, ciao. Ehi, ciao, se c'è qualcuno lo saluti tutti, se no forse la pietra in culo tutti. Allora, Mario Antonio, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Anche gli ascoltatori.